Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Servono più forze dell'ordine per contrastare il clima di violenza in città, ma secondo il sindacato di polizia SIUL, gli organici a Udine non bastano. In arrivo aumenti delle indennità nei comuni più piccoli e di quelle per gli amministratori di Trieste. La delibera è approdata in commissione. Politica abitativa ed esigenze delle varie fasce d'età dei cittadini. Il comune di Trieste ha istituito un osservatorio. Lo Stadio Friuli a Udine verso la quasi autosufficienza energetica. Ha inaugurato il cantiere per la posa di oltre 1.400 pannelli fotovoltaici. Piccola opera festival e piccolo violino magico per le notti di cultura e spettacolo in regione. Alle 12.31, ancora un cordiale buongiorno dalla Razzani e Armando Mucchino, a voi con le notizie della TGR del Friuli Venezia Giulia. La decisione di ieri del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di potenziare la presenza delle forze dell'ordine a Udine si scontra con i numeri degli organici, sempre più in sofferenza. La denuncia del segretario nazionale del sindacato di polizia SIUL, oggi nel capoluogo friulano. Intanto il GIP ha convalidato l'arresto con misura cautelare per i 3 ventenni della zona di Conegliano per l'episodio che ha avuto come esito il grave ferimento di Shinpei Tominaga. Convalidato dalla GIP Carlotta Silva, l'arresto con misura cautelare per i 3 ventenni della zona di Conegliano, già noti alle forze dell'ordine. A Udine per il weekend sono in carcere per l'aggressione a Shinpei Tominaga. La moglie dell'imprenditore giapponese è arrivata in città ed è stata avviata la commissione che effettua gli accertamenti per decretarne la morte cerebrale. Ieri in prefettura a Udine la decisione di potenziare il dispositivo di sicurezza in città. Più presenza sulle strade, sì, ma con sempre meno poliziotti, denuncia il sindacato SIULP. In tutta la provincia a fine anno andrà in pensione il 10% del personale di polizia, saldo negativo di 52 agenti su circa 500. Ci si confronta con un aumento dei reati di tipo predatorio, problema diffuso in tanti capoluoghi d'Italia. Felice Romano, segretario nazionale del SIULP. Ritengo però che le realtà che sono maggiormente aggredite sono quelle più paciose, più benestanti, e Udine in questo paga un ulteriore scotto. Il SIULP chiede l'istituzione di un reparto mobile anticrimine stabile in regione, con almeno 200 uomini in più per dare una mano ai dispositivi ad alto impatto. Ma la prevenzione, aggiunge Romano, si fa con le volanti. Udine soffre anche il problema che è una città di transito. E questo all'aspetto quantitativo, ahimè, si aggiunge quello qualitativo. Non abbiamo una fidelizzazione del nostro personale sul territorio. La vera ricetta è la prevenzione. Abbiamo bisogno di uomini, abbiamo bisogno di maggiori volanti sul territorio e non di pannicelli caldi. Intanto ieri si è costituito l'italo-dominicano che fuori da un bar di via Roma ha accoltellato un dominicano 39enne, facendolo finire in terapia intensiva, non in pericolo di vita. Individuato dalla polizia nell'immediatezza, ha avviato da subito un dialogo con gli agenti che l'hanno convinto a costituirsi per evitare conseguenze penali peggiori. Dietro la lite, un movente di tipo passionale. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Aumenti importanti in arrivo per gli amministratori locali, li prevede una delibera della Giunta regionale che oggi è arrivata per il parere di competenza alla 5ª Commissione del Consiglio. A crescere di più in percentuale sono le indennità nei comuni più piccoli e quelle per gli amministratori di Trieste. L'indennità del sindaco di Trieste passa da 6.820 a 10.852 euro lordi al mese, quella della sua vice da 3.683 a 7.596. Gli assessori del comune capoluogo arriveranno a percepire 5.969 euro rispetto ai 3.273 di oggi. Numeri importanti, quelli stabiliti una decina di giorni fa da una delibera di giunta approdata per il parere di competenza in 5ª Commissione del Consiglio regionale. E in Consiglio la politica si è detta sostanzialmente tutta d'accordo. Gli indennizzi agli amministratori locali, è stato detto, non erano adeguati al livello di responsabilità anche civile e penale della carica. E questo vale anche o soprattutto per i microcomuni, quelli sotto i 1.000 abitanti, che hanno fatto registrare gli aumenti percentuali più importanti. Qui l'indennità del sindaco passa da 1.568 a 2.331 euro lordi al mese, anche se il ritocco per gli altri componenti della Giunta è molto meno marcato. Il documento interviene anche sul gettone di presenza per i consiglieri dei consigli comunali, che a Trieste passa da 104 a 150 euro a seduta e negli altri capoluoghi da 104 a 125. I rilievi arrivati dai consiglieri della quinta commissione hanno riguardato soprattutto questioni organizzative e per la Dem Celotti il parametro della popolazione del comune non dovrebbe essere l'unico punto di riferimento. Fare il sindaco in un comune fra i 3.000 e i 5.000 abitanti può essere più o meno complicato a seconda anche di quella che è la struttura organizzativa di un comune che magari ha la medesima popolazione. Ecco, io credo sia necessario che questa regione inizi ad interrogarsi su come in qualche modo sostenere in misura maggiore quei sindaci e sindache, quegli amministratori locali in generale, che di fatto si trovano ad amministrare enti che sono in maggiore difficoltà. Per Bullian del Patto per l'Autonomia va posta anche la questione della sostenibilità economica delle indennità rispetto ai bilanci dei comuni e occorrerebbe pensare ad una politica di fusione delle municipalità più piccole. E sempre a proposito di sostenibilità economica, pone un problema di bilancio anche la richiesta di aumentare il numero dei permessi lavorativi previsti per i consiglieri comunali. Di Bert della Lista Fedriga. Abbiamo la competenza per dire al pubblico può fare 30 ore di permesso e al privato ci arriva il conto, perché chi ha lavorato in comune ha visto arrivare, immagino, negli elenchi di rimborsi spese dal privato di non poca cosa. Trieste, Andrea Verdanega, TGR Friuli Venezia Giulia. L'intelligenza artificiale applicata alla sanità rappresenta una rivoluzione non solo informatica ma di processo, mentre offre grandi opportunità e anche piena di variabili, deve essere accompagnata dalle istituzioni. Con queste parole Massimiliano Federica, presidente della Conferenza delle Regioni, ha annunciato il Laboratorio Sanità sull'intelligenza artificiale che si terrà giovedì e venerdì prossimo a Villa Manin, un appuntamento che vede il patrocinio della Conferenza delle Regioni, nato per condividere e valutare con esperti nazionali ed europei, manager pubblici e privati, istituzioni, professionisti della sanità e partner tecnologici, le opportunità e i rischi dell'applicazione dell'intelligenza artificiale alla sanità nella sua potenzialità predittiva e generativa. Un momento di incontro e confronto quindi a cui aderiscono 110 aziende, 700 professionisti della salute, oltre 1.100 partecipanti e grandi multinazionali come Amazon e Google. A Trieste il Servizio di Pianificazione Territoriale del Comune ha creato un osservatorio triennale per studiare la rigenerazione urbana e le politiche abitative, anche per conoscere puntualmente le esigenze delle varie fasce d'età dei cittadini. Che cosa serve alla città di Trieste per essere sempre più a misura dei suoi abitanti? Bisogna intanto conoscere le esigenze dei cittadini in base alle fasce d'età e di reddito, con particolare attenzione a come il turismo sta cambiando la città. Ecco che il Servizio di Pianificazione Territoriale del Comune ha creato un osservatorio triennale per immaginare la rigenerazione urbana e le politiche abitative di domani. Architetto Eddie Dallabetta, direttore del Servizio di Pianificazione Territoriale del Comune. Il tema, diciamo, su cui dovremmo porre attenzione, sta emergendo, è il tema della, come dire, abitazione contesa. Oggi sostanzialmente abbiamo i residenti che si trovano in determinate situazioni, quelli con meno reddito, a dover competere con altri soggetti. Abbiamo una città che è molto attrattiva dal punto di vista dell'università e della ricerca, che per questo esprime quella che è una nuova domanda di abitazione. E in più c'è il tema del turismo, che Trieste, per la sua bellezza e per la sua eccezionalità, sta sempre più attraendo. E anche questo sta innescando delle dinamiche in cui sempre più si stanno vedendo degli alloggi che vengono in qualche modo destinati per locazione turistica e non più per i cittadini. A estrarre i numerosi dati presentati dall'osservatorio è una società di ricerca di Mestre, costo dell'operazione 55.000 euro. Il compito della società è anche quello di suggerire possibili soluzioni ai problemi. Il più urgente, calmierare il prezzo delle case. Federico Della Puppa, società di ricerca Smartland. Trieste è una città giovane, è una città che attrae i giovani, attrae gli studenti universitari, attrae anche la fascia d'età tra i 25 e i 35 anni. Quello che abbiamo notato è che in realtà c'è una sorta di spostamento tra la città e i comuni della provincia, proprio nelle stesse fasce d'età successive ai 35 anni. Quindi diciamo che quando si forma la famiglia si tende a cercare delle condizioni, diciamo, di abitabilità che siano più economiche. Ecco, lavorando su questo si riescono a rafforzare magari le politiche abitative in città ed è l'obiettivo anche del nostro lavoro. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Si è riunito ieri pomeriggio in prefettura il Consiglio territoriale per l'immigrazione, di recente ricostituito. Durante la riunione è stato presentato il report provinciale sull'immigrazione, nel cui ambito è stata analizzata la presenza in provincia delle comunità straniere, sia di lungo periodo, con i connessi profili attinenti anche alle richieste di cittadinanza, sia di periodo più breve legato ai flussi in ingresso attraverso la rotta balcanica. Tra i dati presi in considerazione, quelli relativi alla presenza sul territorio di minori stranieri non accompagnati. Altro tema toccato è stato quello del rimpatrio volontario assistito, con la presentazione del progetto per garantire e promuovere l'accesso al ritorno volontario assistito e reintegrazione di cittadini di paesi terzi presenti in Italia. In un anno di sperimentazione non si è mai reso necessario il loro utilizzo, ma i taser sono stati in grado di dissuadere i facinorosi da comportamenti violenti. Per questo l'assessore alla sicurezza del comune di Pordenone, Elena Ciolina, ha annunciato di voler portare in consiglio in autunno la modifica del regolamento, affinché questo tipo di strumento divenga dotazione permanente della polizia locale. La sperimentazione delle pistole a impulsi elettrici era cominciata nello scorso mese di giugno e nei due mesi successivi erano stati addestrati al loro utilizzo 10 agenti. Anche il calcio sposa i temi della sostenibilità ambientale. Allo Stadio Friuli è inaugurato il cantiere per la posa di 1.400 pannelli fotovoltaici che renderanno la struttura quasi autosufficiente. Il futuro è oggi. Dopo l'annuncio di febbraio partono finalmente i lavori per rendere lo Stadio Friuli, già avanguardia in Italia, uno degli impianti più sostenibili d'Europa. È iniziata in collaborazione con il title sponsor dello stadio, la Friulano Blue Energy, la posa dei pannelli fotovoltaici sul tetto della struttura per un investimento complessivo che supera il 1.300.000 euro. Saranno ben 2.500 i pannelli e copriranno praticamente tre quarti della superficie superiore dello stadio, tribuna esclusa, producendo attorno al megawattora a seconda delle condizioni meteo. Dati i consumi del Friuli, 50.000 kilowattora in un giorno senza partite, il doppio quando si gioca, ancora di più in serale, i pannelli non renderanno lo stadio autosufficiente, tanto che rimarrà ovviamente collegato alla rete. Contribuiranno comunque per il 50% dei consumi, per il momento senza un sistema di accumulo. Essendo il sistema certificato sotto il megawattora, in futuro si potrà pensare di accedere agli incentivi per le comunità energetiche rinnovabili. La conclusione dei lavori, che non interferiranno con le attività sportive che coinvolgeranno una ventina di operai, è prevista per fine ottobre. Udine, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo alla vigilia di una nuova rivoluzione industriale grazie all'idrogeno? Quali le questioni aperte sulla produzione, l'uso e lo stoccaggio? E quali i possibili sviluppi e le sfide come la decarbonizzazione che derivano dall'applicazione di tecnologie verdi basate sull'idrogeno? Tutte questioni ancora aperte anche in Friuli Venezia Giulia sull'impiego dell'idrogeno e che comportano uno stretto rapporto tra ricerca applicata e sistema produttivo. Per fare il punto sulla situazione, domani e giovedì Ateneo Friulano e Confindustria Udine hanno chiamato a raccolta ricercatori di università americane, europee e sudafricane e rappresentanti di realtà aziendali. La due giorni di approfondimento, intitolata Economy Revolution by HU and Open Discussion, si terrà a Palazzo Torriani a Udine con il sostegno della Fondazione Friuli. Alle 12.43:30 cambiamo argomento. Ho presentato questa mattina al Rossetti di Trieste il cartellone teatrale per la stagione 2024-2025. Il Teatro Rossetti riparte dai più giovani, quelli del progetto I Piccoli di Podrecca On the Road, un'anteprima dello spettacolo delle antiche marionette che si farà applaudire da un nuovo pubblico viaggiando sul territorio regionale e oltre, una produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. È un assaggio del nuovo cartellone chiamato a celebrare l'anniversario dei 70 anni e a confermare i numeri da record dell'ultima stagione. Tre spettacoli di produzione sono invece il primo richiamo in programma per gli appassionati. Sir Todero Brontolon di Goldoni con Franco Branciaroli, diretto da Paolo Valerio, Il vetro della Clessidra di Claudio Magris, interpretato da Alessio Boni, e l'atteso Pessoa del regista Robert Wilson. Una proposta stagionale che si declina in 80 titoli. Slow Machine e La piccola compagnia della Magnolia sono due delle compagnie che tra prosa e scena contemporanea proporranno generi e linguaggi diversi. I titoli dei musical, quelli di Les Misérables, Come From Away e Anastasia. Renato Zanella porterà il suo spettacolo di danza alle Walzer. I nomi degli attori, Sonia Bergamasco, Filippo Spodini, Cristiana Capotondi, Simone Cristicchi, Galatea Renzi, Lino Guanciale. Un cartellone che vuole emozionare, divertire e far riflettere, a cominciare dal monologo di Sergio Rubini con l'orchestra del Teatro Verdi di Trieste in scena sabato 29 giugno al Parco di Miramare. La campagna abbonamenti si apre domani presso la biglietteria del teatro e online. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Giunge a conclusione Curiosi del Territorio, lo stage che ha visto 19 laureati, già professionisti in diversi settori del turismo e della cultura, diventare ambasciatori e promotori dell'eccellenza del territorio del Friuli Venezia Giulia nei paesi di provenienza. Per questo i Curiosi 2024 invitano tutta la popolazione alla serata conclusiva del loro stage, dove proporranno i resoconti delle loro esperienze durante il soggiorno alla scoperta del Friuli Venezia Giulia. Dalle 18 a Pordenone, nella sede del DIRS, nell'auditorium della Casa dello Studente Zanussi. La project manager Eleonora Boscariol ci ha raccontato com'è andata questa edizione. Questa edizione di Curiosi FVG 2024 è andata positivamente su tutta la linea. Oltre ad aver apprezzato le bellezze del nostro territorio regionale, visitando i luoghi di interesse maggiore dal punto di vista turistico, naturalistico, quindi Pordenone, Palmanova, Cividale, Trieste, Aquileia, eccetera, eccetera, hanno avuto modo anche di non essere semplicemente turisti, ma di essere turisti consapevoli. Hanno utilizzato il tempo a loro disposizione per sviluppare anche riflessioni e pensieri critici sui temi della sostenibilità, sull'integrazione. Hanno raccontato molto della loro esperienza in vari paesi europei, parlando di quali sono le città in cui hanno vissuto e che hanno trovato particolarmente impegnate dal punto di vista della sostenibilità. Quindi c'è stato proprio anche un impegno attivo nel raccontare le proprie esperienze di cittadini europei, e di tutte queste riflessioni tra l'altro ne hanno fatto una serie di contenuti Instagram che sono visualizzabili sia nel profilo IRS Studi Europei che nel profilo Instagram Curiosi FVG. Ai nastri di partenza il piccolo Opera Festival, che riempirà e animerà i parchi e i castelli del Colli e del Goriziano di capolavori della musica lirica. Ci sono le opere di Giacomo Puccini al centro del piccolo Opera Festival, che riempirà fino al 7 luglio i parchi e castelli del Colli e del Goriziano di capolavori della musica lirica. Nel centenario della morte di Puccini andrà in scena il 30 giugno e il 2 luglio al Teatro Verzura del Castello di Spessa la sua prima opera, Intrisa di Magico, Le Villi e molti altri appuntamenti. Gabriele Ribis, direttore artistico del Festival. Chiuderemo il 7 luglio con ancora un gala dedicato a giovani voci femminili pucciniane. I personaggi femminili di Puccini sono quelli più interessanti, e addirittura un progetto di costumi creati per l'occasione, per questo gala, che le tre interpreti indosseranno durante il concerto. Particolarità del festival, la scelta di un territorio transfrontaliero adatto per un turismo musicale che attira visitatori anche dall'estero. Il nostro marchio di fabbrica non è quello di cambiare gli spazi in spazi teatrali, ma farli diventare spazi teatrali lasciandoli così come sono. Quindi adattiamo gli spettacoli agli spazi teatrali, che facciamo vivere con l'opera lirica, e quindi diventa non solo un'operazione culturale, ma anche un'operazione promozionale. A riprova del dialogo con i luoghi, l'opera Il giocatore del compositore fiorentino Luigi Cherubini, che andrà in scena il 1 luglio alla Casa dell'Antica Pieve di Cormons. Utilizziamo quelle che sono le caratteristiche architettoniche degli spazi che scegliamo per creare la regia dello spettacolo. Quindi balconi, finestre vere diventano parte della messa in scena. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Entra nel vivo anche la rassegna Palchi nei Parchi. Tra gli appuntamenti chiave quello del Parco delle Risorgive di Codroipo, dove è arrivato Giobbe Covatta. L'autore e attore napoletano ha presentato il suo monologo Sei Gradi, dove comicità, ironia e satira sono al servizio di una vera e propria opera di divulgazione. Al centro del discorso la sostenibilità ambientale e gli effetti sociali dei mutamenti climatici, specie sulle aree più povere del pianeta. E Sei Gradi è appunto la misura del possibile aumento delle temperature complessive del globo. La rassegna prosegue venerdì sera a Bosco Romagno, a Cividale del Friuli, protagonista un altro volto noto del piccolo schermo, Michele Mirabella. Anche questo appuntamento, come quello con Giobbe Covatta, sarà ad ingresso gratuito. In programma a luglio Piccolo Violino Magico, il concorso organizzato dall'Accademia d'Archi Arrigoni di San Vito, al tagliamento riservato ai bambini e ragazzi fino ai 13 anni. Nel servizio sentiremo Domenico Mason, direttore del concorso. Talenti precocissimi, capaci di affrontare, già in tenera età, un repertorio musicale che richiede grande impegno anche a musicisti di lunga esperienza. Sono i 20 giovanissimi violinisti che dal 1 al 7 luglio saranno protagonisti di Piccolo Violino Magico, il concorso organizzato dall'Accademia d'Archi Arrigoni di San Vito al Tagliamento, è riservato a bambini e ragazzi fino ai 13 anni. Abbiamo pensato a quella fascia d'età perché è il primo momento importante per un giovane talento, insomma, per esibirsi e per imparare che cosa significa stare in un palcoscenico, insomma, con alle spalle un'orchestra. Il nostro concorso è diventato in questi anni uno dei 2-3 concorsi internazionali più importanti per quella fascia d'età e quindi, insomma, riusciamo ad attingere da tutti i continenti. In che modo bambini e ragazzi così giovani si preparano per salire su un palco ed eseguire brani di compositori come Pergolesi, Tartini, Mozart, Mendelssohn, di notevole difficoltà anche per violinisti maturi? Il violino è uno strumento che andrebbe insegnato proprio in precocissima età, proprio per le dinamiche fisiche che si porta con sé. Non sono ragazzini di scuole di musica ordinarie, sono ragazzini iperselezionati. Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. La danza non è fatta solo di movimento, è fatta di immaginazione. Con queste parole la danzatrice e coreografa statunitense Caroline Carson, 81 anni, ha concluso la sua masterclass all'Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe. Abbiamo lavorato sui concetti di tempo e spazio in relazione alla persona, poi proseguito davanti al pubblico che si è presentato numeroso alla lezione aperta a tutti che ha concluso il laboratorio. Grazie a questo tipo di focus su principi base, anche in soli 2 giorni i danzatori hanno acquisito concretezza e gli attori sono entrati nel mondo delle linee e delle forme astratte della danza. La masterclass è stata la prima tappa della rassegna Nico Pepe International, che proseguirà dal 16 al 20 luglio parte del programma di Udine Estate 2024, con la partecipazione di scuole di teatro dalla Cina, dal Burkina Faso e dalla Galizia, con osservatori che arrivano dalla Repubblica del Congo. Tutti lo conoscono come una delle grandi star di Hollywood a partire dalla sua interpretazione di Neo nella serie di film Matrix. Ieri sera però Keanu Reeves si è presentato a Udine nella nuova veste di bassista nell'appuntamento di anteprima del Festival Internazionale dedicato al jazz. Con il suo gruppo e davanti ad una platea di 2000 persone arrivate anche da fuori regione ha presentato il suo progetto Dogstar, che comprende anche Brett Domrose alla chitarra e voce, Robert Mayhouse alla batteria, un gruppo nato qualche anno fa che propone sonorità alternative rock e che ormai ha all'attivo 4 album, compreso l'ultimo che si chiama Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees ed è uscito lo scorso anno. Udine Jazz entrerà nel vivo dall'8 al 14 luglio e vedrà protagoniste in città alcune fra le migliori proposte musicali del contesto nazionale e internazionale, con numerosi momenti di approfondimento e focus sul jazz e sul blues, da Gary Clark Jr. a Fantastic Negrito, dai progetti McCoy Legends e The Jazz Beans del chitarrista Mark Ribot, dal pianista di Yarmouka Hima Ahmad al rivoluzionario trio di Daniela Pes. Alle 12.53 e 35 secondi la pagina del tempo, nuvoloso, variabile sulla regione, le temperature registrate poco fa, Trieste 23 gradi, mare mosso con temperatura di 19 gradi, il vento soffia a 44 km orari da est a nord-est Bora, con raffiche che nella notte hanno raggiunto anche i 74 km orari. Gorizia 21 gradi, Udine 24, Pordenone 22, Tolmezzo 17 gradi, Tarvisio 16, Sapada 13, Forni di Sopra 14 gradi, Piancavallo 15, in quota sullo Zoncolan 11 gradi, sul Monte Lussari 9, Grado 22, Lignano 24 gradi, con temperatura del mare a 24. E vediamo le previsioni dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per oggi. Il cielo sarà in genere variabile con rovesci e temporali sparsi che potranno portare piogge localmente anche abbondanti, più probabili nel pomeriggio sera. Di notte al mattino soffierà bora moderata, in giornata brezza.